Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Quante volte abbiamo sentito dire che l'Italia è il porto naturale del Mediterraneo, ma che il nostro sistema portuale non è assolutamente all'altezza. Ecco perché questa sera andremo a Napoli, uno dei tre grandi porti italiani insieme a Genova e Trieste, il quale sta iniziando una sua attività di ricerca di soluzioni concrete, con un progetto di cui si è parlato nel corso dei seminari Smart City di Smau Napoli, che si chiama MARTE, che sta per Logistica Mare Terra, che vede coinvolte le quattro università campane e molte aziende, e ha l'obiettivo di disegnare un nuovo sistema portuale più sostenibile ed efficiente. Federico Pedrocchi si è fatto raccontare in che cosa consiste da Marco Ferretti, docente di economia e gestione delle merci alla Università Partenope di Napoli, nonché promoter del progetto. E poiché un modo per essere smart è anche provare a viaggiare nel tempo, Marco Ferretti ha accettato di fare un salto nel futuro. Sentite. Grazie a Marco Ferretti, grazie a Federico Pedrocchi, da Maurizio Melis, buona serata, a domani.